attenzione Claudio Sparviero, attenzione Breco canale 10. E me Sandro, Sandro, attenzione Breco 10, Sandro, K, buonasera, chi è? Ciao Sandro, Franco sono. Oh, ciao Fra, buonasera. E me lo stai combinando, un giro sì. Poi ero qua in Cotiaca Campagna, adesso me ne sto rientrando, esce cosa reta, chissà cosa, cos'è, sto rientrando in Campagna, come mi ascolti io, Fra? Ah, su un 8, Radio 5, buono, diciamo che la radio non è proprio buono, buono, però, già, ma, seguo complessivo al 100% quasi. Ehi, vabbè, Fra, considera che sono in macchina, c'ho il Midland 48, Mike normale, quindi. E allora cosa vuoi pretendere? Niente, va benissimo così allora. Dai un pochettino si può fare un tipo saturazione, ma basta, basta. Ehi capo, non lo so da che cosa può dipendere, boh. No, sto provando un antennino, sto provando quella, la Turbo 2001, però quella con l'antennino corto, capito? Ma come stanno andando? Allora va bene con l'antenna. Ehi capa, capa, ho visto che già va bene, diciamo, nel suo piccolo. E infatti. Ma posso avere il microfono normale, essere. In quale zona sei? A Procotores? No, negativo, sono qua quasi. Quasi ottavo, dai. Arrivi bene, dai. Diciamo che già va bene. Per come stiamo andando già va bene. Ok, dai. L'ho messa su a provarla un attimino, visto che c'è l'antennino che è corto, capito? Invece di avere questo antennone lungo lungo, ho visto che già va bene, dai. Va bene, va bene. Tanto, se va bene uno piccolo, che ne fai di uno lungo lungo sulla cappotta? E appunto, per evitare, diciamo, questa antenna lunga lunga, capito, mettiamo roba piccola. E allora, così, penso che sia solo la radio. E Sandro, ti stanno chiamando. Ho capito, ma non lo ascolto. Chi che chiama? Non riesco a tirarlo fuori, Fra. Lo senti tu? Sì, adesso l'ho sentito, però... La prima volta ho sentito Sandro, ma non capivo, poi si è aumentato, quello che ha detto un attimino Sandro. E K Giuseppe, adesso ti sento bene, di modulazione, segnale basso, segnale 5 però, modulazione buona. Ciao Giuseppe, ben ascoltato, Franco lo sorso, in compagnia di Sandro, Sandro poi prendi. K, ok, dai. Ciao Giuseppe, ma faccio fatica a tirarti fuori, Vedi un po' se riesci ad ascoltarmi tu Giuseppe, avanti. K, Giuseppe, ma quindi sei anche in macchina anche tu? K, dai, allora va bene. E allora già riusciamo a farci sentire, dai. Sì, qualcosina in più riesco a tirarti fuori. Ma dove sei, a Sassari? Ok, io ho passato adesso a Ottava, rientro a Porto Torres. Va bene, dai. Ehi, capo, dai. Hai fatto un bel salto, Giuseppe. Da 5 a 7. Si è sentito quel rumorino? Già va bene, dai, l'aiutino ci vuole sempre. Prego. Avanti, prego, buonasera. Cappa, buonasera, ma se ne ero più forte, non so se li ascoltate. Cappa, forte e chiasso, ciao Massimiliano, Sandro. Passato ottavo, ho verificato tutto, come mi ascolti? Una bomba, stagionario vedi, sa. C'è lo stazionale quasi 1.7 e 1.8. Allora, le ho portate 1 e 1. sono stazionarie 1 e 2 su 40, poi tutto 1 e 1. Vedi, già la radio ha già cambiato del tutto. Va bene, diciamo che magari dovete cambiare un po' il mic. Comunque va bene, va benissimo. Domani da questa parte, India Tagota Guidia, Romeo India, avanti. Cosa, Giuseppe? Il bianco. Positivo, buonasera, passiamo da questa. Aspettate un attimino, Giuseppe, dove sei? Non ti ho capito, Giuseppe. R, avanti. Positivo, ma io faccio il metro, ho preso il sistema e si contatto dalla macchina, sono di fronte a Eurocomunista. Va bene, va bene. Giovanni, buonasera. Sandro, tutto PM, ingresso Papatango. Giovanni, dammi un QRK qua dalle tue coordinate. Allora, S7, la mutazione mi pare appena compressa. Capito, là. E allora c'è tanto che arrivo Ittiri. Massimiliano, anche Ittiri mi ascolta. Positivo, ciao Gianni, buonasera. Massimiliano da questa. Va bene, buon attenino. L'unica cosa che dovresti fare, ti dovresti procurare un mic migliore di quello, e va benissimo. Vabbè, dai, adesso giusto così, poi pian piano facciamo qualche piccolo accorgimento sul mic, dai. Adesso era giusto per provare l'antennino, quindi l'antennino va bene, rende, diciamo, dai. È positivo, va bene, va bene, qua sei 9 più 20. Tanti, dai, lasciamo me. Ma sei buon giorno, Sassari? San Giovanni. Ah, ecco, perché quel segnale che hai dato a Sandro? Sì, io sono a San Giovanni, là. San Giovanni tra ottava e lì punti, diciamo, in mezzo. Capo, ma no, pensavo di rialzarti, hai detto, ma questo segnale non l'hai levato, ma... Infatti, se sei lì, allora va bene. Allora, poco fa lo stavo salendo, cioè da sotto casa sua, a me gli arrivava a Claudio segnale di 8, quando era lì alle Leoni a Claudio gli arrivava 9 più 15, ma va bene. Caspa, se va bene, va benissimo. Infatti mi stava dicendo poco fa che aveva quell'antennino corto, ma tu caspita, per un attimo quell'antennino lì va benissimo, più che bene. È positivo, là. Gianni, Ittiri. Ricordo tutti qua, non c'è problema. Vediamo Sandro, sa? Ittiri, dai, io sono quasi al centro di Porto Torres. Ho capito, per me lì c'è un po' buca, Vediamo un po', Massimiliano, mi senti? Positivo, io ti ascolto, 9 più 5, radio 5. Ok, ottimo, va bene, no, così ero entrato per vedere se c'era Librio, invece no, non che Falchetto, non si è fatto vivo oggi. E va bene, dai, riprendete tranquilli, li fate tranquilli, queste ho io qui, sto operando in un macchinario, va bene, riprendete pure. È positivo, quindi, sa, da portatore sarebbe anche Ittiri, cosa vuoi più la vita? Va più che bene, adesso splatterò Giuseppe, sto splatterando a Giuseppe, tutto qua, capito? Va benissimo, eccolo qua Giuseppe. Ascolta tu, Eh sì, tanto. Tanto cosa vuoi fare? Prendere roba grossa che poi non la puoi utilizzare, tenerla ferma, meglio un baracchino. E infatti è positivo, quello è vero. Ma c'è bello di avere qualcosa di più serio, va. Quello è vero, tanto non lo puoi usare, cosa lo tiro a fare? E cazzo. Ma io tempo fa, anni fa l'avevo avuto un vicino. Ehi cazzo, avanti buono. Positivo, va. Va bene, Sandro, sì, c'è il tuo portatore, quell'antenna, va, ultimamente è bene. confronto a quella che c'ho io prendeva molto meno. Siete lì che l'abbiamo fatto le prove in macchinaria, però non ho piazzato il bordo, di sotto, ho messo solo lo stilo con la carica, magari mettendo il cuffo completamente rende di più. E lui ha messo tutto tranne il campo, che ha lasciato quello che c'era, ma sotto casa sua, qua mi segnava segnale di 8, ma di 9, a Claudio invece segnale di 8 gli arrivava. Poi da quando è uscito dalla rotatoria di Porto Torres, Santiago 9.10 fino ad arrivare a Sassari 9.20, 9.30, 9.20, 9.30, sempre fisso. Aveva qualcosa sotto? Prima. Ma cosa vuoi fare? sua, che la devo venire. Ascoltacela. Ah. È in AM, sì, in FM, guarda che sei in FM, vai in AM. Gianni. In FM, guarda il tastino, sei in FM, non sei in AM. Beh, se mi senti, non sei in AM, mi. Sei in FM, tu fai in AM. Pitto mi hai, vabbè. Beh, se mi senti, international, controlla che forse sei in FM, vai in AM. Fammi vedere. Non so come tu mi ascolti, però io non ti ascolto, ti ascolto soltanto in FM, ti ascolto. Ho già rientrato subito.